Identità Italiana, pubblicata dal Mulino negli anni 90. Abbiamo iniziato proprio con Ernesto Galli della Loggia, che è il curatore della collana, che è autore di questo volume intitolato L'identità italiana, che è anche il nome della collana. E abbiamo presentato il volume di Lucetta Scarafia, su Loreto, di Bruno Tobia sull'Altare della Patria, di Franco Cardini, di Bartoli Langeri sulla lingua italiana. E quindi abbiamo già affrontato alcune di queste tematiche. E come sempre, i relatori di questa sera affronteranno la questione dal punto di vista, diciamo così, generale nazionale e poi dal punto di vista specifico locale. E Giovanni Belardelli, appunto, docente all'Università di Perugia, conosciuto anche come editorialista del Corriere della Sera, autore anche di uno dei volumi di questa collana. E a lui abbiamo chiesto di parlare per circa 30 minuti sul rapporto fra la memoria e identità nazionale per quanto riguarda il caso italiano. Forse conviene metterlo. Buonasera, io devo dire che mi sono trovato abbastanza in difficoltà nel pensare una scaletta, come si dice, delle cose da dire su questo tema memoria e identità nazionale, data la sua ampiezza e vastità e la possibilità di fare ipotesi, 20 ipotesi diverse, 20 scalette diverse. Non riuscirò senz'altro a dire neanche la metà, credo, delle cose che forse vorrei dire. Però vorrei almeno cominciare enunciando quello che secondo me è una problematicità non sempre vista, insomma, di questi due termini, almeno di uno dei due, memoria e identità nazionale. In realtà mi occuperò più del primo concetto che del secondo, ma a proposito del secondo, identità nazionale, vorrei citare un fatto singolarissimo che già dice molte cose del nostro paese, di come viviamo l'essere italiani. E cioè nel 1993 iniziò un vero e proprio filone culturale, storiografico, anche se lo iniziò un politologo come Gian Enrico Rusconi, con un libro pubblicato dal Mulino, Se cessiamo di essere una nazione. Poi, in rapida successione, lo dico come mi vengono, ma insomma nei 2, 3, 4 anni successivi uscirono Luciano Cafagna, Non facciamo a pezzi l'unità d'Italia, La morte della patria di Galli della Loggia, Finis Italiae, punto di domanda di Sergio Romano, Italia addio, punto di domanda di Aurelio Lepre. E forse qualcun altro ne ho dimenticato, ma questi sono i più noti. Insomma, tutta una serie di libri, questi ultimi che ho citato, tutti di storici, che si interrogano sul fatto veramente straordinario, singolare e impensabile per gli uomini, come si dice, che fecero l'Italia, secondo cui l'Italia, una volta fatta, si potesse disfare, smontare. Poi non se n'è più parlato, però questo è veramente singolare. Adesso metterò poi, per motivi ovvi di tempo, da parte l'argomento, ma anche questo è interessante. In rapida successione delle persone abbastanza note, degli studiosi noti, poi se ne è discusso molto sulla stampa, pubblica in un libro in cui dice: ma qui qualche cosa non va, forse cessiamo di essere una nazione. Beh, un problema non da poco. Se ne è parlato 93, 94, 95, 96. Mi pare che La morte della patria di Galli della Loggia sia del 90, e poi non se ne è più parlato. Non se ne è più parlato. E io ho l'impressione che il nostro discorso pubblico invece abbia, questo non è un'impressione, è un'esperienza di tutti, è sotto gli occhi di tutti, insistendo sul discorso della memoria, abbia in qualche modo anche esercitato un esorcismo. Ora, Rusconi è un politologo sicuramente serio, se si poneva questo problema, se cessiamo di essere una nazione nel 93, si poteva essere d'accordo o no, ma insomma che forse un problema ci fosse, insomma, mi sembrerebbe certo, però invece non se n'è più parlato. Appunto, ci siamo spostati un po' tutti. Il discorso pubblico italiano si è spostato invece sul versante della memoria, ha lasciato quel terreno forse difficile, forse perché non era molto promettente di facili conclusioni, insomma, spostandosi a parlare della memoria. Nel giro di pochi anni, guardate, se risalite indietro alla metà degli anni 90 e vi mettete a fare delle ricerche, trovate che l'insistenza di oggi con cui si parla, ci si riferisce nel discorso pubblico alla memoria, non la trovate assolutamente. Oggi non c'è rivista storica, ho visto di là che in questa biblioteca c'è la la collezione di una rivista del Mulino che si chiama Contemporanea, non, qui sono abbonato, non c'è numero di Contemporanea in cui non ci sia la memoria in qualche momento storico, luogo, eccetera. Andate indietro di pochissimi anni, è esattamente il contrario. Le riviste storiche si occupano di altri argomenti, non hanno nei titoli dei loro saggi la parola memoria. Ma la parola che, prima ancora che nelle riviste storiche, nei libri di storia, nei titoli dei libri di storia, vediamo campeggiare nel discorso pubblico, in tutte le sue più ampie accezioni, insomma, dei media, la radio, la televisione, i discorsi che fanno gli insegnanti, magari più di materie umanistiche, di italiano, storia, nelle scuole, i discorsi del Presidente della Repubblica. Insomma, siamo dominati, appunto, mi viene anche da dire, scusate, così faccio capire che non è una cosa che mi sembra porti da qualche parte, a mio avviso, da un culto della memoria eccessivo. L'espressione culto della memoria non è mia, è di un intellettuale franco-bulgaro, insomma, bulgaro naturalizzato francese, piuttosto noto, che è Tsvetan Todorov. Il culto della memoria, un'ossessione per la memoria, una retorica della memoria, che io penso abbia poca utilità se vogliamo, se capisco qual è il quesito implicito nel titolo dell'argomento di cui parliamo oggi, memoria e identità nazionale. Se per memoria e identità nazionale si vuole intendere, come penso si voglia, in che senso un consapevole rapporto con il proprio passato può servire a un paese, credo che questa retorica della memoria ci porti molte parole, ma non ci porti molto lontano. Io qui mi ero segnato molti motivi, molte cose negative di questa retorica, ma forse è meglio che li salti, perché poi rischio di parlare soltanto di questo. Voglio però dire almeno un paio di cose, e cioè questa idea della memoria, questo continuo richiamare la necessità di conservare il passato. Ma sì, ma certo, figuratevi, faccio lo storico, posso sostenere il contrario, ma non dice molto, è una cosa che mi sembra abbastanza ovvia. Ma poi spesso ci si trova di fronte a discussioni fra chi vorrebbe cancellare il passato, addirittura si dice, ma io non vedo nessuno che vuole cancellare il passato, vedo polemiche al calor bianco, l'ultima di ieri l'altro, di Giorgio Bocca con Giampaolo Panza fra diverse valutazioni del passato. Ma come mai? Ma allora perché si deve dire che qualcuno vuole conservare la memoria e qualcun altro la vorrebbe cancellare? Chi è fuori nome? Non conosco un libro in cui si sia sostenuto che non bisogna ricordare il passato. Io voglio cancellare il nostro passato. Dov'è? Mi capita di leggere su questi argomenti, non lo trovo. Trovo soltanto, appunto, memorie che si scontrano, memorie divise, rispetto alle quali appunto scivola via come l'acqua sul marmo la retorica della memoria, non ci fa fare passi avanti, appunto. Chi è che voleva cancellare il passato a Marghera a proposito della piazza che il vice sindaco Bettin, appunto, è cronaca di appena una settimana o 10 giorni, voleva intitolare ai martiri delle foibe? Ma nessuno, qui adesso non è il problema del merito della questione dell'intitolazione, è che non c'era nessuna posizione che non era a favore della memoria, c'erano posizioni di diverse memorie. E forse bisognerebbe prendere atto di questo, cioè la cosa che meno mi convince, anzi non mi convince per nulla, di questo nuovo culto della memoria, è che dà l'idea che la memoria sia una cosa fissa da conservare, non sia una cosa in continua evoluzione, che cambia continuamente, non sia la stessa cosa dell'oblio. Se c'è qualcuno che vuole cancellare la memoria, chi vuole ricordare? Chi ricorda una cosa ne butta via un milione di altre, come è noto. Cancellare e ricordare, forse probabilmente di questo avrà parlato Baudet, immagino, che fa il filosofo di professione, non insisto su questo, non sono la stessa cosa. Allora, di tutte le cose che non mi convincono di questa retorica della memoria, vorrei appunto dire che meno di tutte mi convince l'idea della memoria condivisa. Perché l'idea della memoria condivisa implica, che si fa? Appunto, Panza e Bocca, che facciamo? Chi è che va lì a dire a uno dei due, non importa adesso chi, io sono più d'accordo, devo dire, con Panza, e mi sembra che, appunto, parlare, riuscire a trovare il modo di parlare di tutto sia una cosa, appunto, doverosa, ma insomma, non è questo il punto. Chi va da uno dei due a dirgli che la sua memoria non va bene perché rompe la condivisione. Chi lo stabilisce? E come si fa? E come si fa? E poi si impone in qualche modo, per legge, come, chi? Il Ministero della Pubblica Istruzione, ma figuriamoci. Insomma. Non solo, perché la memoria non può essere condivisa. La memoria non può essere condivisa perché non è il suo compito. La memoria individualizza il passato. Rende anche appunto a Bocca, Giorgio Bocca, anche a tanti anni di distanza, inevitabile sentirsi animato. Sentiamo l'eco nelle sue posizioni, per quanto possiamo non condividerle, non le condivido, ma riconosco che c'è l'eco di quello che lui ha fatto, è stato 50-60 anni fa. Allora, che senso ha parlare della memoria condivisa? Ci porta fuori strada. Il nostro problema è invece di accettare le diversità delle memorie. Questo non riusciamo a fare. Delle diversità, diciamo così, disarmate, cioè delle memorie che possano convivere senza che immediatamente si voglia fare una specie di duello dell'ok corral. Fra una delle due deve vivere e l'altra no, per avere la memoria condivisa. Il primo passo mi sembra quello di accettare la diversità delle memorie. Faccio un altro esempio di memoria divisa, che è quello a partire dal quale, se non vado errato, la storiografia italiana almeno ha prodotto il concetto e una serie di libri che avevano nel titolo questo di memoria divisa. Il problema della memoria della Resistenza, le stragi tedesche in Italia e il fatto che in alcuni luoghi, uno forse il più noto è Civitella Valdichiana, la popolazione civile non si è riconosciuta nella memoria, diciamo così, di parte resistenziale. La popolazione civile di Civitella è una popolazione fatta di donne, perché gli uomini vennero appunto tutti uccisi dai tedeschi. Come rappresaglia, feroce e barbara ovviamente, per un soldato tedesco ucciso in osteria a Civitella. Queste donne sono rimaste legate a una memoria che non è una memoria contro la resistenza e contro i partigiani, badate, come spesso le si accusa di aver fatto, ma contro quei partigiani lì, quel gruppetto di Civitella che in modo, francamente, sul piano militare esistenziale del tutto irrilevante e in modo, francamente, incosciente, sono andati in osteria e hanno ammazzato questo tedesco, cosa appunto che non aveva il minimo significato, diciamo così, militare resistenziale. Ecco, chi va a dire alle donne di Civitella, a queste vedove, che insomma, che no, che non va bene, che loro devono accettare che se si è dalla parte, insomma, dell'Italia repubblicana, dalla parte della resistenza, di un paese che si fonda su valori democratici, che non può condannare le stragi tedesche, insomma, loro non possono avere quella memoria, non hanno diritto ad avere, ma insomma, provate a farlo voi, cioè, nessuno penso può pensare una cosa di questo genere. Quindi il problema è che bisognerebbe, ma questo la retorica della memoria non ce lo dice, ci parla sempre di una memoria condivisa. Bisognerebbe accettare che la memoria funziona in un altro modo, individualizza il passato, spesso ci lascia inevitabilmente legati al noi di allora, perché la memoria è un'altra cosa, è continuamente anche tanti miei colleghi che fanno gli storici ormai, appunto, siccome le persone poi che seguono la corrente forse sono sempre di più, è anche più comodo, scrivono sempre libri dove avrebbero scritto storia XY, scrivono adesso immancabilmente storia e memoria, e confondendo due cose diverse che non sono ovviamente una meglio dell'altra, per carità, sono cose diverse, appunto. La memoria individualizza il passato e la storia ci permette appunto di, senza negare che ognuno ha il diritto alle sue memorie, ci permette di non trovare anche lì una storia condivisa, perché è un processo che nessuno può imporre per legge, ma dicendo le cose, appunto riconoscendo la pluralità delle memorie, riempiendo le pagine che magari sono state tenute nascoste, di allargare piano piano, se ci si riesce, l'area, diciamo così, delle opinioni storiche su cui una comunità trova sostanzialmente un accordo, appunto. Passando il tempo quest'area si dovrebbe allargare, cosa che invece non avviene in Italia. Non avviene in Italia perché qui c'è un altro problema, e cioè che il rapporto con il passato è drammaticamente legato alla lotta politica, alla legittimazione politica dell'avversario, cioè alla delegittimazione politica dell'avversario, ma su questo tornerò fra un momento. Per concludere questo discorso sulla mia diffidenza nei confronti di questa retorica, che secondo me non porta da nessuna parte, su questa esaltazione, su questa serie di frasi fatte, scusate, cercando di riflettere a queste cose sono stato preso così da un senso di sgomento per le banalità che tutti ripetiamo. Chi ignora i crimini del passato è condannato a ripeterli. Ma dove? Ma quando? Perché? Benito Mussolini, Adolf Hitler, Giuseppe Stalin non sapevano che cosa hanno fatto gli europei nell'America del Sud, che hanno distrutto quasi completamente le popolazioni indigene, perché non lo sapevano. E cosa fece Simone di Montfort ad Albi? No, il famoso ordine che si tramanda, l'abbia pronunciato o meno, ma gli atti furono conseguenti, appunto. Tuele tus, no? Uccideteli tutti, insomma. Sono frasi che non vogliono dire nulla, mi sentirei di dimostrare, ma non avrebbe senso neanche questo, che forse l'ignoranza ci preserva da possibili crimini. Insomma, c'è una frase molto bella e molto preveggente, viene da dire, del 1926-27 di Paul Valéry, che quelle cose che insomma, a volte proprio bisogna ricorrere ai poeti perché capiscano le cose che gli addetti ai lavori non capiscono, che dice che la storia è uno dei composti più pericolosi che l'intelletto umano abbia fabbricato. Dice questo nel 1927, quando non aveva ancora idea di quell'uso diabolicamente, appunto, mitologico e di sterminio, insomma, della storia che sarebbe stato applicato negli anni immediatamente seguenti dai regimi totalitari dell'Europa. Allora, concludendo per nulla, ma insomma, dopo aver dato, credo, appunto, l'idea di quanto poco mi stia simpatica questa retorica della memoria, le sue frasi fatte, che penso vogliono dire poco, e soprattutto che non sono utili, non servono a nulla, ci mandano fuori strada. Poniamoci il problema, che io comunque individuo, credo di vedere sotteso a questo binomio dell'argomento di oggi. Serve il passato? Serve o servirebbe? Sì. Mi rifaccio qui a quella famosa conferenza di un intellettuale francese, Ernest Renan, del 1882, che cos'è una nazione, in cui dice sì che una nazione è un plebiscito di tutti i giorni, come si ripete sempre, ma dice anche un'altra cosa: una nazione è una ricca eredità di ricordi, è il senso di avere un passato comune e la volontà quotidiana, da ciò l'immagine del plebiscito, di rinnovarlo giorno dopo giorno. Ora, noi abbiamo, che situazione abbiamo? Come ci troviamo da questo punto di vista della ricca eredità di ricordi? Non abbiamo un passato, non abbiamo ricordi. Il problema è appunto che abbiamo dei ricordi conflittuali, che abbiamo delle memorie divise, che abbiamo su molti punti della storia nazionale recente delle visioni contrapposte, inconciliabili, che sono materia continuamente di una contesa politica. Il fascismo e il comunismo non sono mai finiti. Sembra che andando avanti, ricito di nuovo l'episodio del libro di Bocca, uno avrebbe da dire, ma è del tutto normale che dopo 10 anni, 20 anni, un fatto storico, la forza delle passioni renda divise le memorie e impedisca un racconto storico minimamente condiviso in alcuni suoi tratti essenziali. Ecco, io ho l'impressione in Italia che più si va avanti nel tempo su certi fatti e più si accentuano le polemiche. E allora, appunto, devo dire, insomma, si è capito che su questi temi non sono un ottimista e quindi insomma, confermerò il mio non ottimismo. Io non, insomma, vedo molto problematico il rapporto fra memoria e identità nazionale, se lo intendiamo appunto nel senso di Renan, in che misura la consapevole conoscenza, il senso di appartenenza appunto comune si fonda sul racconto storico in qualche misura comune? Beh, se c'è una cosa che caratterizza, fra le tante, ce ne sono tante, la storia dell'Italia unita dal 1860 a oggi, è che da subito su tutti i fatti storici sono sempre esistite versioni contrapposte, che la storia è stata utilizzata come un'arma, dicevo prima, di delegittimazione dell'avversario politico. Solo per l'Italia, appunto, questa retorica della memoria lo fa dimenticare, ma prendete un libro, uno dei migliori libri che siano stati scritti sull'Italia repubblicana, di Silvio Lanaro, appunto, Storia dell'Italia repubblicana, dell'inizio, direi, degli anni 90. E appunto Lanaro ricorda un fatto che noi sembriamo aver dimenticato, pensando che bastino appunto neanche giuste, per carità, esortazioni del Presidente della Repubblica, santi numi, a non vergognarsi della bandiera nazionale, ha ragione, però che basti questo per far cancellare tutto. Cancellare il fatto che della parola patria qualcuno ricorda di aver sentito parlare, diciamo così, in un'epoca più remota, tranne appunto l'estrema destra italiana, tranne appunto nell'ambito di chi più o meno veniva o apparteneva all'area del movimento sociale, di questa parola in un periodo più lontano di 10 anni. Insomma, se qualcuno pensa questo deve tirare fuori, ma sarà molto difficile, i documenti, un articolo su Repubblica, su Corriere della Sera. È impossibile, è impossibile. Silvio Lanaro ha parlato appunto di un processo di snazionalizzazione degli italiani, che è avvenuto nell'Italia repubblicana a partire dagli anni 60, dagli anni del boom economico, in cui i nostri riferimenti culturali hanno avuto tutto a che fare con ciò che si produceva in materia di stili di vita, di accesso, cosa importantissima, figuriamoci, per milioni di italiani, a nuovi modelli di vita, nuovi beni di consumo, ma tutto questo appunto nella completa assenza di riferimenti a un'entità chiamata nazione. Patria non ne parliamo. C'è una frase che non ricordo a memoria, ma è molto aspra, di Lanaro, che dice: gli italiani si hanno cominciato a comportarsi come se il nome del loro paese, la parola patria, contenessero qualche cosa di innominabile, fossero una sorta di insulto. Più o meno questo è il senso, comunque il senso dell'asprezza della sua frase è questo. Stando così le cose, poi noi possiamo meravigliarci di quel fatto che pure è esperienza di tutti, abbiamo assistito adesso tutti, che l'Italia sia arrivata alla vigilia, fermandosi proprio un minuto prima, un secondo prima della cancellazione della propria festa nazionale. Andategliela a dire a un francese, di fare il 14 luglio la prima domenica o la seconda domenica di luglio, come capita, andategliela a dire, ma non c'è bisogno, sappiamo tutti che cosa ci risponderebbe. Questo, se ricordate, è avvenuto in Italia. Naturalmente, è ovvio, assolutamente ovvio, creare una festa, come si dice tecnicamente, insomma, mobile, che non è il 2 giugno, ma è quando capita la prima domenica di giugno, vuol dire derubricarla nel momento in cui altre feste invece no, hanno il loro giorno, possono vantare il loro giorno, il 25 aprile, ma anche l'Immacolata Concezione. Insomma, poche cose, secondo me, come quell'episodio lì, a cui poi si lega tutta la vicenda della, che adesso non sto a ripercorrere, della parata, appunto, anch'essa meritoriamente, tendiamoci, su questo mi sembra scontato, meritoriamente ripristinata. La parata per merito, per iniziativa del Presidente della Repubblica attuale, la festa, diciamo così, non nel senso che ovviamente il potere legislativo non gli spetta, ma insomma su sollecitazione anch'essa del Presidente Ciampi. Però qui bisogna intendersi, io sono d'accordissimo, per un elementare fatto di elementare decenza, che un paese, santi numi, abbia la sua festa nazionale. Trovavo pazzesco che appunto potesse semplicemente, per il problema di ridurre le feste, quindi per un problema di bilancio, appunto tutto questo far cancellare di fatto, derubricare, che è quasi peggio, mi viene da dire, la festa della Repubblica. Trovo sacrosanto che insomma si esponga la bandiera nazionale. Se un paese esiste, ce l'ha, la dovrà pure esporre. Lo trovo altrettanto che si canti l'inno di Mameli, cioè delle cose che appunto è esperienza di tutti, non ci insisto, io me le ricordo, insomma. Mi ricordo appunto quando ho fatto il liceo, l'università, il segno a distanza, insomma, di un intravedere un tricolore voleva dire immancabilmente che arrivava un drappello appunto di studenti di estrema destra, cioè loro erano gli unici, cioè, non conosco nessuno. Delle centinaia di manifestazioni politiche che si sono tenute nel 68 ed oltre, non c'è stato per questo preciso motivo un tricolore che sventolasse, perché la sua asta veniva rotta, sarebbe stata rotta in testa a chi l'avesse sventolato. Ora, queste sono tutte cose sacrosante, come dire, che soddisfano un livello minimo di decenza di un paese, quindi sia chiaro, io penso che abbia fatto benissimo il Presidente della Repubblica. Credo meno invece all'idea che dunque, moltiplicando il ricorso alla memoria nel suo carattere esortativo, dobbiamo avere un passato comune. Già bene, ma come si fa? Che questo serva a qualche cosa. Come si fa se poi appunto a ogni libro che esce, che si occupa di avvenimenti che hanno a che fare dal 43-45 in poi, perché c'è tutto appunto il caso Moro, fino a Craxi, Tangentopoli, appunto esistono versioni non diverse, figuriamoci, è normale, ma drammaticamente divaricate della storia nazionale. Quindi io non credo che con questa insistenza sui doveri della memoria si arrivi da nessuna parte. Credo che sarebbe più sensato ragionare sul perché appunto sia stato tutto questo, questi riferimenti al passato siano stati così problematici. Perché per esempio è stato così problematico? Se noi appunto non ci facciamo confondere da quello che succede oggi o l'anno passato, 2 anni fa, ma proviamo insomma andare un po' più indietro nel tempo, neanche tanto festeggiare il 25 aprile. Io sì, un po' sono cose che mi ricordo, un po' sono cose che si cominciano a studiare, a fare la storia dei 25 aprile italiani. Beh, insomma, ce ne sono stati tanti di 25 aprile. Certamente il 25 aprile della Democrazia Cristiana non era affatto la stessa cosa del Partito Comunista, ed erano due feste, diciamo così, in qualche modo l'una contro l'altra, due letture della Resistenza, cioè dell'evento che pure si considera in qualche modo fondatore o tra gli eventi fondatori dell'Italia Repubblicana. Letture fortemente divaricate di questo evento. Allora, io credo che ci sia, che stia affermando nella storiografia, nel discorso pubblico, un'idea animata da un'ottima intenzione, ma che non porta da nessuna parte, che porta a confondere le acque. E cioè l'idea che, insistendo sui doveri della memoria, moltiplicando, se necessario, le celebrazioni, le feste nazionali, è come dire, sì, piano piano si rimetta in piedi insomma questa identità nazionale malata, si esca, la si faccia uscire dalla convalescenza, la si irrobustisca. E insomma, vabbè, inventiamoci un passato comune, insomma, se un passato comune non sentiamo di averlo, non ce l'abbiamo avuto in eredità, inventiamoci una storia comune. Qui faccio una piccolissima parentesi, perché il discorso sarebbe molto interessante ma molto lungo e non si può fare. Inventarsi la tradizione è una felice espressione storiografica coniata dalla storiografia antropologia inglese, un libro degli anni '80 di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, un antropologo, il secondo, il primo come è noto uno storico, che ricostruiva però un fatto storico che non è tanto ripetibile oggi, cioè il fatto storico per cui nell'Ottocento i movimenti nazionali che aspiravano alla dimensione statale, oppure antiche monarchie come quella inglese, si inventavano delle tradizioni adeguate alla loro dimensione nazionale, a cominciare dal passato. Se vi capita di trovare questo libro, leggetevi il divertentissimo e interessantissimo saggio, per esempio, sul tartan, sulla stoffa appunto con cui si fanno i kilt, che tutti sappiamo, abbiamo sempre saputo che ciascuna diciamo così, fantasia, corrisponde a un antico clan. Questa è una cosa che hanno inventato delle persone, appunto, alla fine del Settecento. Non è vera, ma ha avuto uno straordinario successo. Ecco, credo che queste operazioni però si possano fare nel momento in cui la metà della cultura degli intellettuali europei leggeva Herder, era affascinata dal mito romantico della nazione, insomma fra fine Settecento e primi decenni dell'Ottocento, nell'età delle nazioni romantiche. Credo che oggi chi si trova con un passato che ha dei riferimenti così problematici, come nel caso dell'Italia, non può fare queste operazioni, non sono operazioni che non portano da nessuna parte. Portano alla retorica, appunto, e quindi non risolvono il problema che pure meritoriamente vorrebbero cercare di risolvere. Non so quanto ho parlato. 5 minuti ancora. Sì, no, benissimo, che sto, insomma, mentre parlo taglio cose di questa scaletta del tutto fuori misura. Allora, cerchiamo, come dire, di essere propositivi dopo appunto questo quadro appunto non ottimistico. Io penso che quello di un paese che per motivi che sarebbe interessante affrontare, ma sarebbe anche lungo, lo tralasciamo, si trova con un problema nel rapporto col suo passato, sia una cosa anzitutto da accettare. Sia una cosa anzitutto da accettare rispetto alla quale e rispetto quindi al discorso sulla memoria, bisognerebbe cominciare ad affiancargli almeno un altro, che mi sembra più importante. Quello di cominciare ad accettare che ciascuno dica quello che vuole dire senza che venga accusato di nessuna sporca operazione. Che si tratti appunto dell'assassinio Moro o si tratti invece dei morti ammazzati per mano appunto dei partigiani, di cui parla Panza in un dibattito surreale, perché ha preceduto il libro che ho letto, uscirà domani, ma già il dibattito. Beh, no, sono volante russa, sono 19.000 morti, sono, insomma, sì, non solo l'Emilia, la Lombardia, insomma, Piemonte, il Veneto, insomma, una grossa parte dell'Italia. Insomma, bisognerebbe cominciare ad accettare questa cosa. Da questo punto di vista devo dire il fatto di questa violentissima e così eccessiva polemica che c'è stata appunto fra Panza e Bocca mi sembra quasi positiva, perché insomma dà la dimensione di quanto bisognerebbe finirla con queste cose. Bisognerebbe finirla di fare che cosa? Cioè di pensare che, insomma, il passato è mio, tuo. Ciascuno ha diritto a ricordare, anche Bocca, se pensa quello che pensa, se pensa che, insomma, non si debbano tirare fuori queste cose, sbaglia, perché ognuno tira fuori quello che vuole. Lui tiri fuori ciò che crede. Questo direi la prima cosa. La seconda sarebbe quella, ma qui, insomma, interseca la politica e ci sono molti motivi per cui la cosa è assai difficile. Bisognerebbe appunto che la politica non usasse più la storia per delegittimare l'avversario. Qui, appunto, anche qui, perché questo sia avvenuto e come si possa fare, sarebbe un discorso molto lungo, io mi limito a denunciare la questione, ma certo è sorprendente, insomma, che nell'anno di grazia 2001 noi ci troviamo ancora appunto a costantemente vedere i riferimenti appunto all'Italia salvata dal comunismo oppure a un governo che minaccia il nuovo fascismo. Capite bene che qualunque dibattito sulla storia, soprattutto quando avviene nei media, quando poi va a parare di fatto anche nella involontarietà di chi lo ha sollevato su un'immediata caratterizzazione politica, diventa subito una cosa che prende d'aceto. Io però fondamentalmente penso una cosa, che quella definizione di nazione di Renan di 120 anni fa sia per un verso valida, non può non esserlo, però in sostanza è come, cioè, ci dice gli ingredienti di una ricetta, cioè due ingredienti, due grandi ingredienti, no? Ricordate i ricordi, la ricca eredità di ricordi, il passato, ma anche la capacità di riscoprire le ragioni oggi per cui una collettività vuole continuare ad essere tale. Ecco, io credo che appunto come in una ricetta ci sono i due ingredienti e bisogna forse accettare che nell'ingrediente italiano, ma forse nell'ingrediente del XXI secolo, questo tralasciando l'enorme discorso su che cosa ne è e ne sarà degli stati nazionali, ma insomma in un secolo che non è più, perché ormai ci sono due secoli e mezzo, il secolo delle nazioni, l'identità nazionale, benché noi comprensibilmente continuiamo a chiamarla così, bisogna abituarsi insomma a ridurre la quantità dell'ingrediente storia, passato. Sembra una bestemmia, lo so, in mezzo a tutti questi riferimenti retorici alla retorica della memoria, alla necessità di ricordare il passato, però mi si dovrebbe dire a che cosa portano, a che cosa hanno portato. Com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, io sono sicuro che appunto Giorgio Bocca, per carità, persona che stimo molto, non è semplicemente un esempio che molti avranno visto perché di questi giorni, avrà decine di volte nei suoi articoli fatto riferimento alla necessità di conservare la memoria. E allora a che cosa serve una cosa se non gli è servita a lui, ma in qualunque protagonista di queste violente polemiche storico-politiche, insomma, a calmarsi, a non accusare un'altra persona che scrive un libro che non gli aggrada delle peggiori nefandezze. A cosa serve la retorica della memoria se non serve almeno a moderare le parole? Io vorrei che appunto capire, secondo me non serve a molto e non serve a rafforzare l'identità nazionale, e dobbiamo accettare che così sono le cose. Dobbiamo accettare che il 25 aprile 2003, cioè l'ultimo, dobbiamo accettare perché si è letto sui giornali, insomma, una persona certamente non sospettabile di, come molti dicono, volere cancellare la resistenza, cioè Giuliano Amato, ha detto di avere vissuto un 25 aprile terribile, terribile per le polemiche che ha suscitato. Fate voi il conto fra a quanti anni dal 25 aprile. Appunto, me scrivendone sul Corriere mi è capitato di dire: ma che succederà così a 60 anni che devono ancora arrivare il 25 aprile? E a 70, secondo me, più ci allontaniamo e più terribili 25 aprile, o quello che volete, insomma, di ricorrenze, riferimenti al passato. Quindi io credo che debba avvenire una specie di doppio disarmo del passato. Da una parte appunto bisognerebbe rinunciare a usarlo come arma politica, ma bisognerebbe anche prendere atto che per molti motivi, mi dispiace, appunto non c'è il tempo di neanche introdurli, la storia d'Italia, e insomma, noi abbiamo per molti motivi, abbiamo avuto il fascismo, abbiamo avuto la guerra fredda, il principale partito comunista dell'Occidente, insomma, e questo rapporto è stato problematico. Se cominciassimo a riconoscere la differenza delle memorie, la liceità dei racconti storici diversi sul passato, non darcelo in testa come un randello, sarebbe già abbastanza. E per il resto, ma è più per il resto, credo che noi dovremmo riscoprire quell'altro fattore che diceva Renan, cioè le ragioni che oggi, se ci sono, io credo ci siano, ci tengono insieme. Però qui c'è un problema che dovremmo forse cominciare a dirci. C'è un'identità nazionale, è fatta, certo, l'ho detto, di una festa nazionale, quello è un livello minimo di decenza, è fatta di simboli, di ricorrenze minime. Io non sto dicendo che le si debbano cancellare, per carità, già lo stavamo per fare qualche anno fa. Ma è fatta anche, non ne vorrei dare una declinazione eccessivamente utilitaristica, ma un po' utilitaristica, usiamo questa parola che insomma in Italia è un'accezione negativa. Sì, credo che ci sia questa componente. È fatta anche di un rapporto con lo Stato che sia diverso da quello insieme inefficiente e oppressivo che noi conosciamo nella vita di tutti i giorni. È fatto di servizi che funzionino. È fatta di un territorio, paesaggio, che insomma si leggono, avete letto i reportage che i giornali hanno fatto in quest'ultimo periodo per le ovvie vicende del condono fiscale del governo, insomma, di un'Italia che non si è più fatta a pezzi dagli italiani, il bel paese, ma dove sta il bel paese? Ma andate voi dov'è il 20% dell'abusivismo edilizio, cioè nel sud Italia, e ditemi dov'è il bel paese. C'è un paese mostruoso, allora leggendo ieri un giornalista che si occupa molto di queste cose sul Corriere, scrive in modo molto anche spiritoso, cioè Gian Antonio Stella, ma lì c'era poco da ridere sull'argomento, ha Termini Merese, mi sembra sia andato, che non vorrei sbagliare il paese, ma mi sembra proprio di no. E diceva che sostanzialmente tutto il paese è abusivo. Io mi immagino, sarà che stavo riguardando, cercando di raccapezzarmi questi appunti, mi immagino gli studenti delle elementari, delle medie, delle superiori che lì andranno a scuola oppure nel liceo più vicino, e qui gli si parlerà, e intendiamoci anche giusto in una qualche misura, del 2 giugno, del 25 aprile, delle feste nazionali, e poi si legge che le tombe nei cimiteri sono tutte abusive, lì è tutto abusivo, ma stiamoci attenti con la retorica della memoria, stiamoci attenti, come dire, di non pensare a questo sogno, quel secondo, ma secondo non in ordine di importanza, quell'altro requisito di Renan, trovare le ragioni dello stare insieme, ecco, insomma, non è una delle prime ragioni, e su questo davvero mi fermo, concludo, il fatto che ci siano delle cose che funzionino, appunto, naturalmente in ciò che ci viene dallo Stato, ma non esageriamo, non esageriamo, quando a Sarno si costruisce dove non si dovrebbe costruire, poi non ce la si può prendere sempre con lo Stato per quello che spetta allo Stato e per quello che noi facciamo e ne abbiamo fatte, insomma, di cose che non vanno, soprattutto nella conservazione di quella cosa così costitutiva dell'identità italiana, il bel paese, una cosa che è nata a un certo punto, da un certo punto in Italia, non è sempre stata il bel paese, come sapete è nata, è diventata così negli anni del Grand Tour, e insomma, se noi di questa cosa non dimostriamo che non ce ne importa nulla, però poi, cantiamo tutti e finalmente sappiamo cantare l'inno di Mameli, io non saprei dire cosa è meglio onestamente e cosa è peggio su questo, per carità. Grazie. Okay.